Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Scienziati, i maccheroni e i laureati. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Avvio d'impatto per questa puntata con il brano di Sette Grani, Libera la sedia, un vero e proprio inno al rinnovamento generazionale. E noi rafforziamo questa volontà di cambiamento con la frase della settimana. Dobbiamo costruire opportunità per i giovani, dobbiamo pensare a loro se vogliamo limitare l'emigrazione dei giovani, in particolare di coloro che sono più ricchi di istruzione. Firmato Giorgio Napolitano, Presidente della Repubblica. Napolitano ha aggiunto come sia necessario costruire una società che creda e pratichi la superiorità dell'istruirsi bene rispetto al contare sulla raccomandazione. Oggi ci aspetta un'altra storia straordinaria che ci riporta in quell'incredibile laboratorio di idee, progetti e innovazione che è la Silicon Valley, un luogo dove torniamo sempre molto volentieri. In Italia chi fallisce viene additato come appunto il fallito, mentre qua negli Stati Uniti chi fallisce è quello che ha provato a fare qualcosa. Alberto Tretti, 28 anni, è cofondatore di Glancee, la startup che ha fatto girare la testa niente meno che a Facebook. Attualmente è partner engineer presso l'azienda di Mark Zuckerberg a Menlo Park. Tra poco potremo ascoltare la sua storia. Prima però riascoltiamo un'altra storia che ci ha fatto davvero piacere avere ai nostri microfoni quasi un anno fa. La storia di chi ha scelto di restare e combattere per il proprio futuro in Italia. Alessia Bottone, 27enne veneta, è stata autrice di una lettera nella primavera 2012 al quotidiano della propria città che ha sollevato un polverone sulla condizione dei giovani nella penisola. Dopo studi e stage all'estero, Alessia è rientrata in Italia vedendosi offrire solo contratti sottoqualificati e mal pagati. Da quando ci siamo sentiti, Alessia nel frattempo è diventata scrittrice pubblicando il suo primo libro, Amore ai tempi dello stage, manuale di sopravvivenza per coppie di precari. Così si è raccontata a Giovani Talenti. Caro direttore, mi chiamo Alessia, vi scrivo perché vorrei raccontarvi quello che succede a me a Verona. Ho 26 anni, neolaureata, ho abitato 5 anni all'estero, lavorando come cameriera, facendo stage, lavando piatti e facendo corsi pagati con i soldi che ho risparmiato in 10 anni. Mi sono guadagnato i soldi che mi hanno permesso di pagarmi l'università, l'Erasmus, i corsi di lingua all'estero, ho abitato in 7 paesi diversi, fino a che si realizza il sogno, uno stage gratuito a Bruxelles e uno a Ginevra presso l'ONU. Finito lo stage, torno a casa e mi laureo. Da quel momento il nulla, nessun lavoro, nessun contratto. Alessia Bottone, buon pomeriggio. Ciao a tutti e grazie per l'invito, Sergio. Alessia, questo è un estratto della splendida lettera che hai scritto pochi mesi fa al quotidiano della tua città, l'Arena di Verona, scatenando un po' un putiferio. Quale Italia, Alessia, hai trovato ad attenderti al tuo ritorno dall'estero? Un'Italia pronta a valorizzarti, a incentivare l'impegno e i sacrifici che hai messo nella tua formazione oppure no? No, assolutamente no, Sergio. Purtroppo io mi aspettavo qualcosa di diverso, nel senso che per tutti questi anni ho cercato di investire su me stessa, sulla mia formazione, facendo stage appunto e laureandomi. Al ritorno mi sono resa conto che appunto mi aspettava il nulla, questo nulla così ben definito. Nessuna possibilità, ma non solo nel mio campo, ma anche semplicemente di guadagnarmi qualcosa facendo la cameriera o facendo un altro stage. Tutti mi proponevano di lavorare gratuitamente, a 200-300 euro al mese, cosa che adesso non ne ho più 26, ma ne ho 27 di anni. La cosa diventa sempre più difficile. Diventa difficile chiedere aiuto ai propri genitori, diventa frustrante e quindi mi rendo conto che la situazione non è più fattibile. Saranno stati forse anche 5 anni all'estero che mi hanno permesso di vedere una visione diversa del mondo, delle possibilità. È chiaro che non è tutto rose e fiori, vero, all'estero, però sicuramente c'è un indirizzo diverso, i giovani vengono presi in considerazione in maniera diversa. Ecco, però qual è il tuo sogno, il tuo obiettivo lavorativamente parlando e quali le offerte che hai ricevuto o ricevi come risposte, in modo molto concreto? Allora, guarda, ovvio che il sogno resta sempre quello delle Nazioni Unite, magari di poter lavorare in Africa o in Asia, ma quello, ecco, diciamo che è il meno fattibile. Poi ci sono le organizzazioni non governative, le associazioni, magari anche scrivere degli articoli, perché no continuare con il blog che sto portando avanti, una serie di cose. In realtà credo che nessuno di questi al momento sia fattibile, nel senso che o si riparte andando all'estero, oppure investo un'altra volta facendo uno stage gratuito in Italia, oppure, come tanti propongono,